No, scusa Lisa, vieni un attimo qua perché questa dobbiamo registrarla. Ha preso una noce di cocco in testa. Allora, sta per parlare in radio. È stata letale. Praticamente la mia fonte di gossip, diciamo... Quindi fatevi DMD, ma non di noci di cocco. Esatto. Tipo, vai, dici Lisa, dici. Fatto praticamente... Lui ripeti tutto. Allora, lui Keith Richards. Ma lui chi è, tra l'altro? Chi è Keith Richards? Raga, non lo so neanche io. Non lo so neanche io. Rolling Stones. Ah, ok, certo. Purtroppo l'uso di Instagram ha cancellato nella mia testa l'associazione nomi facce. Sì. Praticamente ha passato la vita a scendere qualsiasi tipo di droga e senza nessun tipo di giudizio naturalmente e poi a un certo punto ha fatto un sacco di soldi, ha comprato un'isola a Turks and Caicos, okay. E si è arrampicato su un albero di noce di cocco, gli è caduto addosso una noce di cocco e si è rotto tutte le ossa del corpo, però adesso sta bene. Meno male, è stato grande. Un applauso. Grazie. Allora, un applauso alla prossima ospite di Cabaret che sarà più seria, in vesti più serie, cabiriesche. Cabiriesche, però noi. Questa sera invece funge da cioè per noi. Per bello. Noi popolo intellettuale. Così per dire intellettuale, eh? Esatto. Sì, sì, Lisa è veramente la mia fonte. Lei sa tutto. È vero, e non è neanche vero. Dobbiamo fare un... Aspetta, no, vieni. Scusate, qua, un'altra... Ti prego. Il microfono potrebbe arrivare a te. Chiara è una persona incredibile. Credo è la persona più ironica e speciale del pianeta. La nostra radio dovrebbero ascoltare la nostra. Mi sembra un po' too much. Come ho detto prima. No, ieri leggevo... Dopo aver letto... È un peccato che questa cosa non l'ascoltino gli automobilisti. Esatto. È peccato. Ieri ero in chiamata con una delle mie migliori amiche e abbiamo deciso di fare un po' il National Geographic di Pat e Simons. E dopo aver detto quanto odio i delfini... Okay, perché delfini. Io ho un problema con i delfini che sono veramente sono cattivissimi, cattivi. Oltre ad essere froci, possiamo dirlo? Certo, perché io sono frocio e quindi posso dirlo. Si può dire tutto, ma vabbè, a parte i delfini, perché poi siamo passati ai panda invece. I panda sono carini, tu dicono, oh ma che dolci panda. Vero, può essere anche vero, io non sono una fan degli animali, i panda in particolare, perché mi fanno impazzire, ma sono effettivamente tra le razze più stupide sulla faccia della terra. Perché loro hanno un intestino che è fatto per mangiare, per essere carnivori. Ma, spoiler, si mangiano bambù, tipo, solo no? Di bambù. E il bambù è un alimento che uno gli fa male allo stomaco, cioè non lo digeriscono bene. Perché non sanno cacciare. E due, ma non sanno fare niente. E due, il problema è che dovrebbero essere estinti perché loro mangiano così, cioè il bambù non ha nutrienti. Infatti il problema sono gli zoo. Allora, esatto, ok. Giovanni è già. E quindi devono mangiare 12-16 ore al giorno. Siamo online. Ciao a tutti. Io allora me ne vado. Devono mangiare 12-16 ore al giorno per arrivare al fabbisogno che ha più o meno di cui hanno bisogno. Un bando. Mangiando solo bambù quando dovrebbero mangiare tipo carne. Ottimo, allora dopo queste notizie dal National Geographic e anche un po' come dire di razzismo contro gli animali, tra l'altro vorrei dire che al momento è allestita una mostra proprio pensata al contrario, che vi invito a vedere nel caso non aveste visto, dedicata proprio al tema del rapporto tra uomini e animali, che diciamo auspicherebbe a un rispetto e un amore reciproco, ecco, quindi però non ci sono panda effettivamente, per i panda e i delfini, quindi panda e delfini abbiamo detto. Beh, io però ci metterei anche meduse, zanzare, piccioni, come la vediamo? No, perché i piccioni? Meduse, ma i piccioni sono orrendi, non è vero, dico io. Atroci, sono stilosi. No, io sono team piccione. Anche sono team piccione. No, posso dirvi una cosa atroce? Raga, ieri, trauma della mia vita, parte 2, un'altra zecca mi sono trovata. No. Qua, una zecca sul collo. È possibile? Non lo so, diciamo, non lo so. E una zecca qua. No, infatti, Giada, forse ti direi di controllare. Devo controllarmi. Era bianca, con un bordino beige, schifosa, con delle gambette orrende. E all'inizio non capivo, sembrava un pezzo di pelle. Oddio, Edo, tu hai notato zecche nel tuo corpo? Edo, controllati, io ho trovato una zecca su di me. Edo, controllati, prego. Forse. Allora, nota, quando andiamo nei parchi, Laura è sempre molto preoccupata per le zecche. Io no, io non ho mai le zecche le prende zecche. Solo lei. No, ma raga, gravissima. Quindi secondo me sentono la paura, le zecche la vogliono. Non si staccava, era un pezzo di pelle, non veniva via, dicevo minchia che duro. E invece poi ho capito, ho visto delle gambette, ho proceduto subito con una pinzetta e strappamela dal collo. Aiuto. Giovi, non avevo messo il tuo meraviglioso spray, purtroppo, pensando che d'inverno le zecche non potessero vivere. Non gli frega niente. Che paura. No, infatti mi fa male. Comunque hai messo un terrore per le zecche. No, baby, fatti fare un check. Un terrorismo. Terrorismo. Poi questi scemi mi prendono in giro, ma è grave, si può morire. Non vorrei morire per causa di una zecca. No, scemi dicevo già come Giovanni. Ma forse c'è il vaccino anti-zecca. Va bene ragazzi, allora niente, torniamo a noi, spero che comunque il pubblico parteciperà perché è simpatico questa sera. Sì. Allora, benvenute, benvenuti a Cabaret Voltaire, ultima puntata della stagione 2025, siamo ormai a un anno e mezzo di radio. Bravi. Applauso. Bravi, bravi. Favoloso. Pubblico clamoro, tre persone, ma comunque. Scusami, tre, quattro, cinque, sei, sette, perché uno sta un po' in disparte. C'è anche Rocco, otto. Vabbè, diciamo che il tre era un numero simbolico. 9, 10, 11, raga, 11. Vabbè, tanti. Più ascolti radio in diretta, pare. Pare di sì. Pare di sì, raga. Venerdì sera scoppiettante. Esatto. Allora, questa sera ho deciso di invitare Giada Duino, che adesso si presenterà, ma vi dico che, eccomi qua, è una creativa che scrive tante cose belle, tra cui ha già scritto e pubblicato ha scritto il testo per un fumetto, I cavalli del Tennessee, che abbiamo già presentato in Alge, peraltro. Esatto. Che tra l'altro pensavo di regalare a Giaele, ma poi questo è parentesi che ti dico dopo. Oh no! Beh, non parleremo di questo. Giacina mia, tanti auguri, sono in ritardo, ma ti regalerò questo fumetto. E compie 10 anni comunque prima. Oddio, non so se per 10 anni, vabbè. Comunque storia d'amore. Sveglia. Sveglia. Sì, sì, sì. Ama i cavalli. Sì, che non ci sono cavalli comunque. Lo so. Vabbè, comunque. Vabbè. Insomma, Giada, che questa però questa sera invece, diciamo, leggerà un estratto di un suo recente racconto ancora inedito, in fase anche tra l'altro un po' di elaborazione, che si chiama Aru non esiste più. E che io ho trovato molto bello e mi piaceva l'idea di parlarne insieme, e quindi dopo la lettura che adesso Giada ci farà parleremo un po' del racconto, un po' dell'approccio alla scrittura, un po' del tema della maternità. Questa sera, eccoci qua, ci concentreremo su questo in qualche modo. Siete belli spaparanzati e spaparanzate? Giudy, perché sei nell'angolino? Pressione sul pubblico. Quindi Giada, bando alle ciance, prego, leggici. Okay. Pure. Allora, eccoci qua. Va bene, parto con la lettura. È un estratto, ovviamente. Solo di un estratto, esatto. Si tratta di un racconto breve. E il titolo appunto è Aru non esiste più. Scusate, ma non l'ho stampato, non sono venuta preparata, sto leggendo dal telefono. Però no, vabbè, ci vedo. Allora. Mi sento pronto, diceva lui. Perché da sola non ti basto? Provavo a scherzarci su io, ma la verità era molto più complicata di così. Nei miei momenti di solitudine guardavo il mio corpo nudo allo specchio e pregavo la me del futuro di non tradirmi. Mi chiedevo perché non volessi diventare madre o cosa mi mancasse. Per quanto mi sforzassi, le risposte alle mie domande non si rivelavano poi così importanti. La cucina ha un piccolo balcone che dà sull'ampio cortile interno. Mentre Fabio compone maldestro la moka, il suo viso incontra un raggio di sole. «Cazzo!» esclama e fa cadere un po' di caffè sul piano della cucina. Quando è nervoso le mani gli diventano di burro. Mi alzo per passargli la spugna e torno al mio posto. Guardo verso un angolo della stanza. C'è una mensola, con delle foto incorniciate che non avevo ancora notato. Una in particolare cattura la mia attenzione. Quella di lui con una bambina in braccio. Mi irrigidisco. «Mia nipote», dice per tranquillizzarmi, seguendo il mio sguardo. La sua voce è calma. Io invece non so nascondere le espressioni. Il mio viso è uno specchio limpido e lui riesce a leggermi troppo bene. «Ah, sei zio!» sospiro. «È bellissima, vero? Ricordi che la cercavano, mia sorella e Davide?» «Certo, ne parlavamo spesso. Ce l'hanno fatta allora?» «Sì, sai, non è facile a 36 anni.» Abbassa gli occhi e credo di capire dove vuole arrivare. «Aveva quasi 36 anni quando abbiamo iniziato a parlarne. Io 31. Discutevamo sul concetto di famiglia, mentre eravamo a pranzo dalla sua. Sembravamo d'accordo. Se io non volevo, non c'erano ragioni per insistere. A me, solo il pensiero di avere un essere vivente che cresce nella pancia faceva rabbrividire. Qualche giorno dopo, senza dirmi niente e di nascosto dagli occhi inquisitori di sua madre, che stranamente stava dalla mia parte, aveva fatto una visita in ospedale. Avrebbe dovuto prendere un integratore alimentare per aumentare la motilità degli spermatozoi. Magari se un giorno cambi idea», commentava e mi baciava sulla fronte. «No, non è facile», rispondo secca. «Molti uomini si impegnano così tanto quando sentono il desiderio di diventare padre». «Come si chiama?» chiedo, mantenendo un tono di voce rilassato e curioso per non far trasalire i miei sentimenti. «Si chiama Sole», mi dice lui, che nome da hippie, penso, e al tempo stesso credo di non aver visto, di non aver mai visto una bambina così bella. Sole è un nome perfetto. «Ti sta bene fare lo zio?» «Sicura che ne vuoi parlare? Non forzarti se non vuoi. Solo perché non ho voluto fare un figlio con te?» Sbotto. «Aru, volevo essere sicuro che ti andasse di affrontare l'argomento. Ora non mi va più. È meglio che riprenda il mio disco e me ne vada. Ero qui solo per questo.» Finisco il mio bicchiere d'acqua e mi alzo dalla sedia. Per pochi secondi Fabio mi fissa. Con forza mi afferra un polso e ci troviamo a pochi centimetri l'uno dall'altra. Non riesco a guardarlo. Il caffè sale e lui allunga il braccio libero solo per spegnere il fornello. Non si sposta. La sua altezza mi dà l'impressione di essere davanti a una montagna impossibile da superare. Mi ero accorta troppo tardi di averlo privato di qualcosa di troppo importante per lui. Non volevo rinunciare all'alcol e alle sigarette, a cui davo ancora un significato romantico. Non volevo sformare il mio corpo, già ricurvo su se stesso, fatto da un busto corto e gambe troppo lunghe. Non volevo lasciare il mio lavoro precario, che però amavo tanto e nutrivo con ogni cura possibile. Non volevo elencare ogni ragione per cui avere un bambino era qualcosa di estremamente distante da me. Grazie. Ben arrivato, Gabriele. Abbiamo presentato un po' tutti questa sera. Allora, Giada, forse partirei chiedendoti di raccontarci un po', se ti va, appunto, come è nato questo cioè forse anche un po' una trama per dare un contesto più ampio a chi ascolta. Sì. E poi, appunto, da cosa ti è nato l'idea di questo racconto? Non so se avevi delle immagini, delle esperienze, delle idee da cui hai preso spunto. Allora, parto dalla trama. Vabbè, come più o meno avrete capito, la protagonista è Aru, Arianna, e che, per darvi un po' di contesto, che va a casa del suo ex compagno con cui ha avuto una relazione lunga e che però appunto è finita perché diciamo c'era un po' uno scontrarsi di desideri e di aspettative per il futuro della coppia. Lui voleva diventare padre, mentre lei non voleva diventare madre. E quindi questa cosa ha fatto sì che insomma la loro storia d'amore finisse. E lei però torna da lui per una serie di coincidenze per il caso, diciamo. E questa storia è nata, io ho frequentato un laboratorio di scrittura creativa e questo racconto è nato, insomma, frequentando questo corso. E diciamo che è tutto nato il corso è partito dalla costruzione di un personaggio. Quindi, insomma, io insieme ai miei compagni di classe dovevamo costruire un personaggio partendo da delle descrizioni di personalità che già esistevano. E diciamo che fin da subito è nata Arianna, con una personalità completamente diversa, però più o meno nella mia testa aveva preso forma questa personaggia. E poi da lì vari esercizi sono sempre più, insomma, stratificati, finché poi è nato questo racconto. Quindi il processo creativo, diciamo, è stato un po' questo, partito da un laboratorio di scrittura. Un po' indirizzato dal laboratorio. Sì, esatto. Ma perché hai deciso di chiamarla, innanzitutto perché, diciamo, c'è una parte nel testo che ora leggerò, scusate, lo trovo, che diciamo, su cui ti soffermi rispetto al nome, no? Cioè lei si chiama Arianna, ma appunto Fabio, che è il suo ex compagno, la chiama Aru. E lei dice tu scrivi a un certo punto: Aru, solo lui mi chiama così. I miei amici mi hanno chiamata con il classico Ari o Anna, che insieme fa Arianna e significa purissima o castissima in greco antico. Mi fa sorridere a volte sentirmi in contraddizione col mio stesso nome. Quindi mi chiedo se anche la scelta di questo nome per te abbia un significato rispetto poi anche all'evoluzione del personaggio e della storia. Ma un po' sì, perché comunque volevo dare una personalità ad Arianna. Nel costruire, diciamo che la cosa più difficile è proprio la costruzione dei personaggi quando ci si imbatte nella scrittura, perché comunque bisogna conoscerli, bisogna sapere quello che pensano, come agirebbero, e questo è molto difficile. Diciamo che è una difficoltà che ho incontrato anche all'interno del laboratorio, e che poi comunque con cui magari mi scontro quando se devo scrivere, cosa che non accade mai, però se devo scrivere delle storie. E quindi partire dal, insomma, usare il presupposto, la scusa dei soprannomi mi ha un po' aiutata forse a scindere le diverse personalità della personaggia. Quindi quella che è Arianna nella sua vita e quella che invece era Aru all'interno della relazione. E invece Fabio, che è un personaggio un po' più complesso, perché dal racconto, diciamo, ha dei tratti molto teneri, gentili, amorevoli, poi allo stesso tempo anche un po', non dico aggressivi, ma violenti, ma insomma un po' comunque più bruschi. Quindi come è stato per te costruire questo personaggio? Allora, un po' per questa ragione, all'inizio è stato difficile concentrarmi sul punto di vista di Fabio, perché non lo conoscevo. Cioè, proprio perché... Cioè, tu ti immedesimi di più ovviamente in Arianna. Cioè, allora, meglio, forse non so se è stato più facile. Allora, sicuramente trattandosi di una personaggia donna è più facile magari riconoscermi. Ma la verità è che ero molto più concentrata sul punto di vista di lei, dimenticandomi completamente di Fabio. Cosa che nella scrittura non deve avvenire. Perché mi rendo conto che quando scrivo, sicuramente c'è un protagonista in ogni storia, però il protagonista agisce, ha a che fare con gli altri, e gli altri sono importanti tanto quanto il protagonista. Quindi quello che poi è stato per me un esercizio ulteriore è stato quello proprio di sedermi insieme a Fabio e capire almeno un po' chi era e qual era la sua personalità, che cosa pensava e come poteva agire in determinati momenti. E secondo te, se dovessi, cioè giusto per concludere un po' una contestualizzazione sul racconto, qual è il cuore emotivo un po' della storia, diciamo, appunto, da cosa è partito anche la scelta di questo tema? Allora, quello che un po', diciamo, anche un po' sto imparando da questi laboratori di scrittura, che tra l'altro ci tengo molto a dirlo, sono curati da Laura Marzi, che è una scrittrice, una critica letteraria, che mi piace molto come scrive, come lavora, il suo approccio anche alla scrittura. E lei comunque ci tiene molto nei laboratori anche a spingerci, no, a scrivere, perché sentiamo un'esigenza. Quindi l'esigenza che in questo caso un po' mi spingeva era quella di raccontare un po' le emozioni che ci stanno dietro a quando ci si sente in colpa. Quando ci si sente in colpa e soprattutto a non essere chi non siamo. E quindi per me, diciamo che poi il pretesto narrativo è stato mettere dentro questa emozione in un contesto di coppia, e dove si parla di desiderio e anche un po' di responsabilità verso l'altro, quindi quello che è il sentirsi in colpa e poi i sentimenti di rabbia e di paura sono molto centrali. Sì, infatti è molto evidente, perché a un certo punto anche verso la fine tu proprio scrivi anche che Fabio è ancora immerso nel suo rancore, che prova per appunto Haru perché gli ha sottratto il suo sogno. Allo stesso tempo lei fa una scelta per se stessa molto difficile, proprio perché nonostante magari l'amore che possa provare per il suo compagno, lei poi fa una scelta poi personale di capire che nonostante questo i desideri e le prospettive del loro futuro non coincidono, e quindi fa una scelta, cioè sceglie se stessa, no? Cioè proprio a un certo punto dice: non provo più nessun senso di colpa, non ho più nessun peso a darmi tormento, sono come se qualcuno avesse strappato via tutte le pagine di un libro scritto a metà. Haru non esiste più, perché adesso rimango solo io, quindi Arianna. E quindi cosa speri che, diciamo, il lettore potenziale, nell'ottica che a un certo punto questo testo venga pubblicato, si porti un po' a casa, o diciamo cosa speri che resti come messaggio al lettore, alle lettrici? Allora, devo dire che essendo il frutto un po' di un laboratorio, il mio sguardo al lettore, diciamo che era minimo. Nel senso che di solito quando magari si pensa allo scrivere un testo, che sia per un libro o per un fumetto, per qualsiasi cosa, si pensa anche tanto poi a al fatto che deve vendere questo prodotto. Il fatto che questo testo non sia nato per essere un prodotto, per me l'importanza che io do al lettore è il fatto che si porti a casa una bella storia. Cioè, per me l'importante è che a qualcuno piaccia e basta, senza in realtà troppi giri, e che se rimane qualcosa, che sia effettivamente un ragionamento, delle cose che smuovono, direi. No, certo, anche perché mi sembra un tema molto attuale. Allora, questa sera introduco la mia seconda ospite, Maddalena Scalettari, già stata ospite di Cabaret Voltaire, nonché mia insegnante di tessuti aerei, appunto. Ciao. Che, diciamo, nell'ottica che, diciamo, appunto il testo parla di maternità, ma né io né Giada siamo madri, quindi mi sembrava un po' ipocrita fare un discorso solo tra di noi sul tema. E ma quindi, madri di idee. Madri, esatto. Noi siamo madri di idee. Esatto. E invece Maddalena è mamma, quindi appunto come spoileravamo prima all'inizio del podcast, per cui insomma, mi interessava avere magari uno sguardo anche di qualcuno che potesse avere avuto un'esperienza un po' più diretta. E ciao, io sono la madre. Esatto. Allora Maddalena, siccome mi sembra che nel testo sia evidente il fatto che il processo anche di, diciamo, valutazione di Haru rispetto alla sua gravidanza e al suo rapporto con Fabio ovviamente si è influenzato anche da delle aspettative sociali, culturali, no? Sulla maternità, mi chiedo se anche tu nella tua esperienza, cioè, o meglio ti chiedo forse di dare una testimonianza tua personale su come hai vissuto questo testo nel leggerlo e in qualche modo come ti sei ritrovata o non ritrovata o comunque rispetto a certe tematiche che escono fuori su questo tema. Ho detto la parola tema poche volte comunque questa frase. È un tema. È un tema. È un tema, è un tema. Allora, leggendo il testo, la cosa, il tema che mi ha più insomma toccata in qualche modo è in realtà le dinamiche che accadono all'interno della coppia e il fatto che noi ne vediamo un po' gli effetti, quindi assistiamo a questo piccolo spaccato di cose che succedono fra loro due, però nel dopo, ecco, e come nel dopo comunque talvolta si rivelino le briciole, i frammenti di quelle che appunto erano le aspettative interne alla coppia. Diciamo che questo per me si lega al tema della relazione e alle possibili forme che una relazione può avere all'interno della società, ma nel senso, come dire, aspettative che ognuno ha nei confronti della propria relazione. Questo un po' in senso generico, anche al di là poi della specifica scelta di avere figli o non avere figli, perché appunto la maternità comunque riguarda il tema dei progetti che puoi costruire o che senti di poter costruire con qualcuno con cui hai un'intimità così profonda, ecco. E quindi comunque mi toccava il fatto che per me è un testo che riguarda progettualità non condivise. Poi sicuramente è un testo che può toccare progettualità non condivise o anche incapacità di reagire compattamente, unitamente, di fronte a delle aspettative che vengono infrante. Questo si lega in parte poi, ecco, alla mia personale esperienza, perché probabilmente nel mio vissuto di madre è successo di più di doversi scontrare con delle aspettative che magari si poteva avere rispetto a un progetto condiviso, alla capacità di ognuno di provvedere a un progetto, che però appunto si sono dovute scontrare con dei limiti, delle incapacità di far fronte ad alcune situazioni, e questo può creare ovviamente tutta la fatica e il dolore che queste situazioni possono creare. Quindi in un qualche modo per me questo testo riguarda molto questi temi, ecco, difficoltà nell'incontrare una comunità di progetto, condivisione di progetto, o talvolta proprio aspettative che si infrangono. Questo penso che sia un tema della relazione molto significativo, perché comunque appunto succede comunque di doversi scontrare con sentimenti, succede di dover fare i conti con il fatto che è più importante per me il progetto della coppia o è più importante per me il progetto di comprare una casa, avere un figlio, avere un cane. Tantissimi progetti sono possibili, progetti artistici anche si può fare con i propri partner, quindi ci sono tantissime possibilità per appunto. E io credo che ci siano molte situazioni in cui ci si dice che no, ma il progetto della coppia è più importante, e poi però succede questo scontro amarissimo con la realtà dei fatti. Questo è sicuramente un tema. Poi per me personalmente comunque è interessante questo testo, come mi capita appunto che sia molto interessante per me confrontarmi con punti di vista di persone appunto che sono in un momento in cui giustamente stanno molto proteggendo, difendendo la loro scelta di non essere madri, che è una scelta sacrosanta assolutamente, e questo a volte appunto mi risuona molto, perché ci sono tante madri che hanno molto bisogno di essere viste non solo come madri, quindi in realtà c'è un po' questa comunanza di bisogno di essere riconosciute come donne, al di là di essere madri, al di là di non essere madri. Però capisco che non posso davvero capire una combutta interiore di ok, ma io con l'essere madre mi ci voglio confrontare o no, al di là del mio bisogno di essere riconosciuta come donna. E pensi che appunto ci siano anche delle forze, perché per adesso mi sembra che il discorso sia anche molto personale all'interno del rapporto di coppia, però mi chiedo se ci... cioè lo chiedo a entrambe in realtà, perché penso che esca fuori anche dal testo di Giada, quindi mi immagino che sia una riflessione che hai fatto anche tu, se ci sono delle, come posso dire, pressioni anche sociali, un po' esterne al, diciamo, le aspettative, il vissuto personale, che possono condizionare una scelta del genere, nel senso che appunto nel testo c'è a un certo punto, insomma, tra le righe, perché poi penso che una cosa interessante del modo di scrivere di Giada è che non sia mai troppo, come posso dire, diretto, e che quindi magari certe questioni vengano fuori in maniera un po' indiretta, non è un testo tra virgolette pesante o troppo didascalico, ecco, mi sembra che ci sia molto anche una cioè molto veloce da leggere, molto leggero, e mi sembra che le cose escano più fuori da delle dinamiche che racconti più che dirle in un modo diretto. Scusate la parentesi. Comunque mi sembra chiaro che lei si ponga proprio tantissimo la questione di dire anche, cioè fare la scelta di abortire ha comportato per lei una riflessione anche sul fatto di sentirsi, no, contro natura, cioè o comunque, anche se tra l'altro ho una domanda che non so se okay. Non ho capito se realmente lei abortisce o perde il figlio, perché alla fine c'è una parte di racconto in cui lei ha questa perdita di questo liquido nero. Abbiamo un plot twist. Un plot twist, quindi non so, in realtà forse mi sbaglio, però mi sembra che comunque esca un po' questo tema in generale di sentirsi, cioè di avere la difficoltà, tra l'altro quello che dici tu, no? Cioè di scegliere se stessa come persona, al di là di invece magari uno stereotipo che le è un po' imposto. E ho trovato anche interessante il fatto che fosse invece l'uomo a avere la parte del, diciamo, voler essere padre. Bene, mi fermo qua. Ok, allora vado. Ok, e, no, in realtà allora sono molto colpita dal fatto che emerga nella lettura il tema dell'aborto, perché in realtà io non ci ho proprio pensato. No, infatti non lo dici mai, e ho avuto un dubbio, perché c'è solo questa scena alla fine. Diciamo che quello che accade nella storia è che Arianna appunto va a casa del suo ex compagno per recuperare un vecchio vinile che aveva ancora lui. E quindi, diciamo, poi succede anche questo piccolo dialogo di cui ho letto prima, e quindi riemergono un po' dei vecchi screzzi, no? Che in questo caso erano sull'avere dei figli. E quello che poi questo dialogo sveglia nella protagonista è l'ansia e la paura. E quindi qui entra in gioco il corpo, e l'ansia, la paura e la rabbia diventano cose che si accumulano all'interno di Arianna e che poi esplodono. Poi io, come, diciamo, figura retorica, come rappresentazione, ho scelto che le si gonfia la pancia. E si gonfia la pancia, che è un po' il simbolo di dove, insomma, di dove stanno le nostre ansie, le nostre paure, e dove stanno i bambini. e quindi tutto si gonfia, fino a che poi avviene questa esplosione, che in realtà non è un'esplosione, perché purtroppo non è un'esplosione splatter, ma è proprio una perdita di liquido, in questo caso il liquido nero, che per me rappresenta quella che è appunto la paura e la rabbia, perché da una parte c'era Arianna che tornava dal suo ex compagno pensando di ritrovare una persona diversa, in realtà una persona che aveva capito che lei non voleva questa cosa per se stessa, non, insomma, per fare un torto a lui, e invece lo ritrova al punto di partenza, e un po' anche quello che Fabio poi lui insomma sprofonda all'interno di questo liquido nero, come se prendesse visione della, di lei, di, del fatto che dice ok, cioè capisco, mi prendo le mie responsabilità, che poi tra l'altro Fabio nella storia si rifà una vita perché ha una compagna, e quindi infatti poi vabbè, questo è un altro spoiler, però tanto chissà se verrà mai pubblicato, c'è Arianna che dice io spero che Anna, che è la nuova compagna di Fabio, che questo bellissimo gioco di parole sui nomi, ti sappia rendere felice. Quindi c'è anche un po' questo. E quello che poi anche diceva prima Maddalena è molto giusto, cioè nel senso che sì, il tema della maternità, del non volere, di non volere figli in questo caso è anche un po' un mezzo che mi interessava esplorare, non come rappresentante di io non voglio avere figli mai nella vita, chissà, perché io sono molto dipendente dal corpo e mi piace scrivere del corpo, quindi io non lo so che cosa mi riserverà la vita, però mi interessava anche questo punto di vista, perché comunque anche un po' come Maddalena diceva, ogni scelta è giusta se la fai per il tuo bene, ecco. Vabbè, ma niente di specifico, no, però diciamo io ho associato questa questa diciamo immagine simbolica del liquido nero, appunto l'ho immaginato come se fosse una perdita, o comunque diciamo come se fosse un'associazione all'idea che lei non volesse talmente essere madre che appunto espelle il figlio e quindi fa il gesto di aborto, diciamo. Ma può esserlo un po' comunque nel momento in cui abortiamo qualcosa che non vogliamo, esatto. Può esserlo. E quindi no, dicevo, se rispetto anche al discorso che facevi tu prima, c'è una tematica anche non solo di scelta personale e quindi diciamo di tutto quello che può essere nella dinamica di coppia a portarti a fare delle scelte del genere, ma se ci sono delle pressioni o comunque delle aspettative che sono anche un po' fuori, no? Da questo, e che sono più magari sociali o diciamo culturali, no? Beh, certo. E quindi un po' mi chiedo se è una cosa che sia nella tua esperienza che appunto nella lettura di questo racconto, cioè che peso pensi abbia comunque oggi anche nel fare una scelta come quella che fa Aru, no? Sì, questo. Sì, per me appunto riguarda sempre il fatto che le scelte che vengono fatte fuori dalla cosa un po' più normale, no? Dalla situazione un po' più normalizzata, sono sempre molto cariche di giudizio, credo personalmente più per le donne che per altre persone della nostra società. Allora, se, appunto, secondo me in realtà sono dei pesi che ci sono anche laddove poi una donna sceglie di diventare madre, nel senso che sono pesi che e aspettative che tendenzialmente pesano ogni volta che tu fai una qualche scelta che è legata al femminile, ma che non è che tu non la stai compiendo nel percorso più corretto e nel modo più giusto e con i tempi più adeguati, eccetera. Quindi io credo che ci sia inevitabilmente tantissima pressione di fronte a soprattutto di fronte a quando ti poni questa domanda, se ti poni questa domanda, che risposta dai a questa domanda. Io personalmente ho avuto la fortuna insomma di ricevere molte confidenze da ragazze e donne che mi hanno parlato dei loro aborti e si sono sentite libere di parlarmene, e sentivo che proprio loro erano tranquillissime con il fatto che era la scelta più giusta per loro, non avevano dubbi che fosse la scelta più giusta per loro, però in base alla diversa età che avevano c'era un diverso peso che veniva dato a questo, quindi ci sono tante donne che sono già madri ma che scelgono di abortire perché non ce la fanno ad avere più figli di quelli che già hanno, ed è una scelta che figurarsi se viene accettata quindi non si può dire perché come sei già madre, com'è possibile che non sei figli di questi altri 10 figli? Esatto, però appunto sono numerosissime, no? Nella società viene più colpevolizzata la giovane ragazza che che sbadata, sono rimasta incinta, quando invece è proprio un costrutto del cavolo che ci viene raccontato. Ci sono anche ragazze che mi hanno raccontato delle loro situazioni dove appunto, cioè, la situazione era no, io con questa persona non voglio assolutamente dover creare un legame di genitorialità, quindi ci mancherebbe altro, in più non è per me il momento. Quindi inevitabilmente di fronte a questa scelta c'è un sacco di peso. Poi io per mia esperienza personale non ho scelto di abortire, quindi posso portare, diciamo, la testimonianza del fatto che comunque, anche se scegli di diventare madre ma poi non sei la mamma canonica o non lo fai nel momento adeguato, perché non so, si è deciso che il momento più adeguato è fra i 30 e i 40, non lo so, il mondo ha deciso questo. Sì, a caso adesso, A caso adesso, sì, sì. Però chissà perché a noi ci deve sempre pesare sul coppino il tempo, sì, che sì, qualcun altro ha deciso per noi. Quindi comunque, ecco, in questo tema, quale che sia la scelta che fai, alla fine qualcosa non va bene mai a nessuno. Vabbè, che... No, ma qui ti dirò, Laura, una cosa che mi infilo qui col piede dritto, perché mi sono un po'... ho un po' letto cose in questi giorni e una cosa che mi ha colpito molto è stato questo termine qua, il fatto della iperresponsabilizzazione individuale, che io trovo molto centrante in questo argomento. Il fatto che poi quando si parla di maternità, di genitorialità, si scarica tutto sull'individuo: figlio tuo, scelta tua, fai tu. E si dimentica molto quello che è invece, insomma, il valore sociale, dove poi all'interno di questo discorso si parla anche un po' del diritto di genitorialità, come se i bambini non fossero neanche il soggetto dell'argomento, e stanno al di fuori di qualsiasi agenda culturale o di qualsiasi discussione. E questa è una cosa che mi ha colpito molto, effettivamente, di quando si tratta di soprattutto donne che prendono scelte. Chissà quegli uomini là fuori cosa pensano di questo argomento, vorrei troppo saperlo. E... Ciao ragazzi. E, scusate, questo è il vino che parla. Però, ecco, io credo che sia questo... Possiamo chiederlo ai nostri uomini in sala comunque. Tra l'altro volevo dirvi che potete intervenire anche nel flusso del discorso, cioè non necessariamente alla fine se volete. E basta, quindi no. Tipo, io mi oppongo ai matrimoni. Io mi oppongo! No, cioè senza aspettare il momento domande, possiamo farla una specie di assemblea aperta. Vabbè. E due spiacciate. Lisa ti sembra sul punto di intervenire? Sono a dire l'identità di maternità delle star. Parlaci di noci di cocco, che bello. Chissà se il latte di cocco fa bene a tutto, il latte di cocco, quindi anche durante la maternità. Va bene anche al latte. Quindi. Ma infatti, vabbè, mi aggancio un po' a questo discorso perché c'è un'altra cosa che volevo affrontare in questo senso, cioè Fabio appunto vive la genitorialità come una specie di completamento personale, cioè mi sembra dal racconto un po' di intuire che, per questo vi facevo anche la domanda tra virgolette della pressione sociale eccetera, mm-hmm, perché per quanto ovviamente immagino sia un suo desiderio personale, mi sembrava un po', o almeno io l'ho interpretato un po' così, che ci fosse anche in realtà proprio l'idea che, perché Fabio è più grande di Aru, ha 35 anni e quindi è probabilmente anche un po' in una fase di vita diversa, tale per cui forse, come dire, viveva anche una sorta di, non so, io ho voluto leggerla come un I have to tick the box. Mm-hmm. E a una certa età devo avere sto con una ragazza che amo e voglio farci dei figli. Poi cioè, come dire, no, ripeto, non voglio sminuire il suo desiderio di genitorialità, ma quasi che ci fosse anche un po' un tema di realizzazione a livello sociale, cioè a una certa età devo, insomma, avere famiglia, e eccetera, no? Sì, sì. E quindi mi interessava capire se ti, cioè, se avevi un po' il desiderio di raccontare anche questa pressione che il desiderio può esercitare, no, sulle persone, su questi tipi di scelte. Sì, soprattutto, cioè, magari anche su un uomo, mi sento di dire, no? Cioè, sì, beh, sì, perché poi anche un po' agganciandomi a quello che diceva Maddalena prima, che quando comunque siamo in un rapporto di coppia, comunque quando abbiamo uno o dei, chissà dei, un casino, partner, e dobbiamo avere a che fare non solo con il nostro desiderio, con le nostre aspettative, ma anche con quello dell'altro. Quindi sì, comunque anche questo scontrarsi di desideri, di aspettative, quello che poi fa e succede se non sei in grado di, oddio, più che in grado, insomma, se non sei anche un po' disposto a non a cambiare per l'altro, però quello che penso è che magari all'interno di una coppia poi si trovino dei modi creativi di stare insieme, di costruire, e comunque il racconto è ambientato nella società di oggi, nella cultura che abbiamo oggi, quindi sicuramente c'è da una parte magari quello che è l'esterno della società di oggi e come influisce, dall'altra però c'è anche il fatto che oggi forse la genitorialità non è al primo posto, non so come dire, no? Cioè l'età biologica, l'età fertile si sposta sempre più avanti, come diceva Maddalena, no? Hai 30 anni, quindi 30-40 anni, quella è la fascia, prima invece era 10 anni prima, 20 anni prima, e quindi c'è già molto prima, no, 20 anni no, però 20 anni è troppo, però troppo. 10 ok. 10, no, rispetto ai 40 forse. No, rispetto ai 40, 20 ci sta. Rispetto ai 40. E quindi, cioè, rispetto alla generazione precedente c'è un tema anche molto di infertilità di cui si parla tanto, e sono soprattutto gli uomini, tra l'altro, i protagonisti di questo tema. E quindi, secondo me, cioè, il desiderio di Fabio era genuino, però non incontrava semplicemente quello di Arianna, e quindi c'era, Arianna era anche quasi disposta a piegarsi, diciamo, un po' per il bene della relazione, perché in un passo del racconto Arianna dice mi guardo allo specchio e mi dico di non tradirmi, perché Arianna l'ha fatto nel suo passato, perché c'è anche proprio una questione di affettività, di amore, no? Di piacere agli altri, io voglio piacere agli altri, quindi cerco di piegarmi anche un po' a quello che sono i desideri degli altri, e invece in questo caso lei, insomma, ha deciso di no, di non cambiare. Al massimo quello che poteva succedere era che Fabio accettava questa cosa, mettendo l'amore per Arianna al primo posto, però invece per lui era un'altra cosa, e quindi ha deciso di continuare, insomma, la sua vita, farsi una nuova compagna. Vuoi dire qualcosa? Ma perché se no mi sono dilungata, forse, scusate. No, ma figurati. No, perché forse faccio questa domanda a entrambe, ma lascio prima la parola a Maddi. Perché la protagonista, appunto, cioè per Aru il rifiuto della maternità è proprio, appunto, un atto anche di autodeterminazione, no? Cioè, appunto, riagganciandomi anche a quest'ultima cosa che hai detto, appunto, lei a un certo punto dice: io non sono più Aru non esiste più, io scelgo me, e alla fine scelgo il mio desiderio e quello che io voglio per me. E quindi mi chiedo quanto sia difficile, secondo voi, ancora oggi rappresentare, nel caso anche per Giada, diciamo, a livello di scrittura, una donna che sceglie se stessa su tutto. Cioè, lo dico anche perché, appunto, penso che anche tu nella tua scelta, Maddalena, differenza di Aru, hai fatto una scelta diversa, però hai scelto comunque anche te stessa, no? Cioè, nel senso, hai seguito un desiderio che chiaramente avevi e che volevi, per cui non solo in senso negativo, intendo, però quanto sia, cioè, ampio un po' il discorso su un tema magari anche più ampio in generale di spazio che una donna può avere di fare delle scelte per se stessa contro un po' quelle che sono le aspettative al di fuori di sé e all'interno anche eventualmente della coppia in cui si è. Allora, io personalmente devo dire che ho passato molti anni a sentirmi un po' più isolata in un qualche modo rispetto alla scelta che avevo fatto io, che era appunto di diventare madre molto giovane, e però ecco, plot twist, devo dire che penso che siano proprio sentimenti che scaturiscono tanto da aspettative che stanno un po' nell'aria, ecco, che sono quelle su cui forse è molto sano scontrarsi presto e vedere presto che sono fatte proprio di fumo, perché per esempio parlo poi della mia esperienza, ma parlando con altre madri, altre ragazze non madri eccetera, mi rendo conto che poi pane al pane, vino al vino, non è così, appunto in realtà non si è così isolate in nessuna scelta che si sta facendo, e penso soprattutto nel momento in cui proprio qualcuno dice dai proviamo a spostare un po' tutto sto fumo che ci mettono davanti agli occhi, ragazze ma voi mi state giudicando? E di solito risponde un coro di no, nessuno ci sta giudicando. E questa cosa penso che sia importante, ecco, che arrivi e esca un po' per tutte, ecco, sì, cioè che in realtà penso che ci sono molte più persone pronte ad accogliere il fatto che siamo donne che vogliono scegliere i propri desideri, i propri sogni, se stesse, c'è una rete pronta che ha solo bisogno che qualcuno inizi a infilare l'ago col filo, ecco, questo. Allora, mi ricordo la domanda, però però seguo questo flow e non lo so, io ogni tanto mi ritrovo a riflettere sul fatto che io non credo sia necessario che al giorno d'oggi non diventare madre sia uguale a non voglio crescere dei bambini. Verissimo! Adesso non so come articolare questa frase, però ci ho pensato oggi mentre pensavo all'incontro di stasera. Comunque mi capita di avere a che fare con persone che magari lavorano con i bambini e hanno a che fare con i bambini e li amano, no? Che però magari non vogliono diventare madri, oppure io ho lavorato con bambini e il mio sogno era diventare istruttrice di equitazione per i bambini, ma cioè amiamo i bambini, amiamo, però ecco, cioè appunto non sempre, no? Questi due sono due cose molto diverse e poi appunto è importante anche il fatto di insomma di poi cioè togliersi questo fumo, no? E di dire ma cioè, una rete ce l'ho? Sì? No? Forse sì. Infatti forse mi soffermerei su questo tema della rete perché era tra l'altro una cosa che era uscita tra di noi anche quando ne parlavamo insomma per preparare la puntata, che forse la questione, cioè una questione interessante è che forse parlo anche per me personalmente, ma mi sembra che ci sia sempre di più un desiderio di voler uscire anche sinceramente dalla dimensione di coppia a livello di responsabilità nella crescita di figli e figli, no? E mi ricordo che appunto quando parlavamo, Maddalena, tu dicevi quanto per te è importante la rete, che anche si crea cioè l'idea di avere una rete, cioè quindi forse di avere una sicurezza che va un po' oltre quella dimensione di coppia di madre padre o madre madre padre padre o quello che è, insomma, però cioè di avere forse un'idea più comunitaria nel crescere figli o figlie, tanto che non so, nel mio caso, in un momento di follia in cui pensavo che sarei morta, ho scritto una lettera. Oddio. Ho scritto una lettera ai miei futuri potenziali figlie in cui raccontavo di tutte le mie amiche e i miei amici. dicendo, cioè, avevo fatto questo ragionamento folle in cui pensavo, se muore, si muore tua mamma, vorrei, cioè da madre vorrei che i miei figli avessero un assaggio di chi era la loro mamma, e quindi ognuna delle mie amiche ha un ruolo nel raccontare, bellissimo, questa cosa. ha un ruolo nel raccontare una parte di me, no? Cioè le persone a me più care sono le persone che mi conoscono, e in qualche modo vorrei che trasmettessero ciascuna una parte di loro che riconosco anche in me, appunto ai miei figli e alle mie figlie, e potenzialmente penso che così vorrei che crescessero i miei bambini, se mai li avrò, cioè diciamo vorrei che non avessero come punti di riferimento solo due persone, un nucleo di due persone, ma non lo so, insomma un'idea che ci fosse più uno spazio, non lo so, forse perché ho vissuto in una famiglia anche un po' disfunzionale. Quindi mi dico che forse tu stai guardando il pubblico. Guarda, il mio parte del pubblico, esatto, ammiccato, il pubblico che comprende il mio disagio, e quindi un po' penso, cazzo, invece se avessi avuto più punti di riferimento nella mia crescita, quante cose forse, cioè, ma anche perché penso ci sta, cioè ognuno di noi ha anche una serie di problematiche, traumi, per cui forse è meglio che non siano solo due persone a crescerti, ma che ci sia più un'idea generale. Ho perso un po' il senso della domanda, ma vi butto di questa questione. Della rete. Della rete. Sì, sì, sì, sì, sì. No, cioè, non la rete. Lettere di morte. Tra l'altro è un'idea, se volete farla. Io invece, prossimo racconto. Io invece quando ho i miei momenti dove penso adesso muoio, faccio dei testamenti, quindi inizio a distribuire tutte le mie cose a tutti. Guarda, gli amici. Io non ho più averi. Ah, questa è la distribuzione, però. Nel pubblico ci sono persone che riceveranno, okay, cose da me se muoio. Cose inutili, però. Libri vecchi e caricabatterie, però. No, vabbè, la casa va già bene, raga, cioè, giustamente. Allora, sì, secondo me mettiamo insieme un po' di elementi, volendo. Importantissimo, secondo me, che si inizi pian pianino, no, a rimettere da parte questa idea della famiglia composta solo da due, che peraltro è un'idea molto recente, in realtà, se ci riflettiamo. E anche il fatto che non devo necessariamente partorire figli per essere la loro madre o comunque la loro figura di riferimento forte, questo secondo me è una cosa molto importante, anche perché penso che ci sono madri disposte a partorire figli ma che poi non hanno voglia di fare le madri, ma la società ha deciso che devono per forza fare le madri, quando invece questi bambini magari potrebbero essere cresciuti benissimo sapendo che hanno una madre biologica, ma che poi i loro riferimenti affettivi, emotivi e di ruolo sono altri adulti. Questa cosa andrebbe benissimo, però dai. Esatto. E la rete, dai, la questione della rete è, non so, era il mio discorso alla festa dei miei 30 anni. È fondamentale, fondamentale, raga, importantissima. Vi prego, costruitevi una rete e fate crescere i vostri figli dentro la rete, perché posso assicurare che i genitori da soli non ce la fanno, non ce la fanno. Se si sentono soli, fanno cazzate e da soli e creano traumi. Quindi, tanti anni di terapia. Visto che siamo tutti esseri umani e quindi tutti facciamo errori e ahimè feriamo a volte il prossimo, avere la rete rende tutto ciò, penso, semplicemente molto più umano e parte della vita, e senza che nessuno debba essere crocifisso per i suoi errori. Sì, soprattutto credo che comunque la rete faccia, non lo so, oggi che le, insomma, che abbiamo uno scenario in cui le cose cambiano a una velocità della luce, sicuramente la stabilità relazionale o di quella che è una famiglia nucleare o comunque la propria rete che poi uno si costruisce, Nella situazione di oggi, soprattutto vabbè, occidentale, è fondamentale. Cioè, ti dà sicuramente dei punti poi a cui aggrapparti. Leggo di persone che magari non volevano assolutamente sposarsi o magari non volevano assolutamente avere figli, che poi invece si sposano e hanno figli. Invece a me piace molto, cioè poi io vedo questa cosa e dico, ah, che bello in realtà, cioè non so perché questa speranza, questa cosa mi dà, sì, cioè io credo che comunque la famiglia abbia ancora e resiste in qualche modo. Sì, no, scusate, solo questione speranza, però la leggo non solo a fare figli ovviamente, ma in realtà no, certo, a qualunque produzione creativa di cose. Comunque penso che il fatto che le donne si permettano di creare in ogni forma è una cosa importantissima secondo me oggi, perché è proprio qualcosa che ti permette di immaginare un futuro. E quindi anche questo peso che viene continuamente messo sul fatto di fare o non fare figli, come se il punto fosse identitario della singola persona, sì, riguarda l'identità, però riguarda anche la possibilità del gruppo di persone di avere un po' di fiducia, di poter immaginare qualcosa di diverso, di far arrivare idee nuove, esseri viventi nuovi che però porteranno cambiamento, qualcosa di nuovo, cioè veramente la capacità di poter immaginare ancora qualcosa di diverso, che penso sia appunto una cosa molto attuale e su cui noi dobbiamo un po' tenerci forti, perché mi sembra che tutto questo cambiamento, tutte queste innovazioni, se poi le guardiamo da vicino, è sempre la solita stessa broda, solo all'ennesima potenza, poche persone che si arricchiscono, ok, quando invece mantenere viva la capacità umana di immaginare, creare, dare qualcosa di completamente diverso è preziosissima. Sì. Può riguardare i figli, ma non solo i figli. Ma volevo aprire il dibattito al pubblico. Dai, qualcuno intervenga, diceci qualcosa. Oddio. Pubblico. Se volete, vi butto questa notizia che ho visto oggi su Instagram. Attenzione che Lisa poi fact checking. Vediamo il fact checking. Allora, no, che mi ha raccapricciato in realtà, perché ho detto, ma che cazzo di... Si può dire cazzo? Si può dire cazzo. Di multiverso viviamo. Quello che cresce i figli con ChatGPT? Sì, lui. Oh mio Dio! Oh, sapevo di cosa parlavi! Oh mio Dio! Allora, ma la roba è che io l'ho visto. Allora, aspetta, contesto. Ieri scrollavo su Instagram e in realtà vedo questo video di questo uomo, padre credo anche, a Gaza, che costruisce una lavatrice. Ok. Che costruisce una lavatrice in quel contesto lì, no? Cioè, con un cesto. Dall'altra parte, negli Stati Uniti, abbiamo Altman, che comunque esistenza chi è? Io non sapevo chi fosse, l'ho scoperto recentemente. Vabbè, esistenza che ignoro. Lisa? Lisa! Ah, è lui? Sì, è quello di OpenAI. No, sì, l'ho scoperto guardando il video. Okay. Quindi comunque è uno dei... Il capo, è il CEO di OpenAI. Ok, quindi il CEO di OpenAI, lui, insomma. No, che non so se hanno sentito perché era il pubblico a parlare. È il CEO di OpenAI. Esatto. Sì. Lui che dice, io non so se sarei in grado di crescere un newborn senza ChatGPT. Porco due. E io oggi ho detto, ma che allora, fiar direbbe Zaffa, cioè, che non c'è stasera? Cioè, scemo new! Per me queste due, cioè questi due video, questi due reel che mi appaiono nel mio feed, sono una roba che i miei neuroni non ce la fanno. Cioè, sono una roba atroce. non ce la faccio, cioè. Io spero non faccia mai figli questo Altman, onestamente, che non li compri, che non li generi con l'intelligenza artificiale. No, però io dal video avevo capito che invece aveva figli, no? Era solo una sparata così. Non lo so, onestamente, ho detto salvate quel bambino. Per come fruisco i contenuti in questo momento della mia vita, l'ho visto, ho detto porca scazzo. Vieni petto, vieni qui, alzati. No, tipo lui diceva una roba tipo, ma se mio figlio ha fatto cadere la pizza, una roba del genere, cosa devo fare? Cioè, Cioè, nel senso, chiede a ChatGPT sì. come raccogliere la pizza da terra. No, cioè, gli, credo gli atteggiamenti del... Chiede a ChatGPT la scientificità della regola dei 5 secondi. Sì, vabbè. Dai, Petto, intervieni, vieni sul palco. Dibattito. No, ma la mia domanda era... Dai, che ti piace ecco il microfono. To, facciamo domanda. No, no, ma la mia domanda era semplicemente appunto in che modo lui volesse... cioè, non capivo... dove volesse parlare per dire io cresco il figlio con ChatGPT, però mi hai risposto nel senso proprio che lui non sa vivere senza no esatto figlio. Esatto esatto, cioè perché lui diceva cioè, ma non è il problema io non figlio. So come fare a gestire no, questa cosa figlio. Senza ChatGPT, perché ogni cosa che succede gliela chiedo, l'ha creata lui no no no no, ma ci sta è suo figlio. Era la mia il domanda. Figlio di Altman è OpenAI, il pensiero su ChatGPT è nel senso che parte le informazioni sui panda. Esatto, no, è complicato nel senso che capisco che da un lato possa aiutare e in determinate situazioni e tutto. Diciamo che in altre, come diceva prima Maddalena, anch'io penso che la creatività e tutto ciò che insomma l'essere umano sa fare è giusto che continui a farlo e non si arrivi appunto a un livello del genere in cui una persona dica io non saprei gestire se mio fratello, ciao. Se mio figlio. Se mio figlio cadesse tipo dalla sedia e adesso non so cosa fare. Certo. Quindi. ChatGPT. Sì, sì. Cioè, mio figlio è caduto su ChatGPT. Cosa devo lui fare? Sta morendo e tu guardi ChatGPT. Lì sarebbe un po' inquietante la cosa. Quindi. Ma infatti, cioè, la roba. Cioè, la dualità di questi due video è che comunque da una parte abbiamo una persona, un padre, un uomo, un essere umano creativo che costruisce una lavatrice, cioè e dall'altra abbiamo una persona che comunque ha dato vita a una roba che come cazzo ha fatto non lo so, che però non saprebbe gestire la propria vita senza. Questo è distopico, disturbante. Ma atroce. No, ma io penso che in verità, come ogni cosa, se come dire, è usata con una grande banalità, come un gufo del malaugurio, cosa ha fatto una proiezione del futuro. Cosa ha detto? Tipo, andrà sempre peggio. No, ma queste drammatiche. Questo è perché siamo frutto di famiglie disfunzionali. Quindi noi vediamo con ironia la vita, ma consapevoli che la vita è una queste merda. Queste macchine dobbiamo usarle a nostro favore. No, cioè, ma infatti io penso che diciamo credo che sia grave il fatto che si voglia appunto annullare completamente lo sforzo alla creatività e al cioè all'usare il cervello, diciamo. Però se è uno strumento molto utile che si è usato in verità in una modalità intelligente, cioè non so come dire, è uno strumento. È uno strumento, allo stesso tempo se lo utilizzi come fonte di informazione per la tua esistenza è grave, però vabbè, sì. Ovvio. Cioè, ma se questo strumento rivoluzionasse come Google, cioè, Wikipedia. Esatto. Cioè, se questo strumento rivoluzionasse il lavoro e io dovessi solo fare click e basta, e poi avrei tutto il tempo per pensare alla famiglia, alla rete, alla mia vita, ci metterei la firma. Io no. Di no, come no? Non voglio fare click per ma infatti Israele credo non abbia ancora. No, aveva già visto un tablet. Vabbè, sì, dai. No, però nel senso che cioè, no, se il lavoro diventa quello e si trasforma, allora ho il tempo di trasformare e arricchire le mie relazioni. E se il punto è non vogliamo più lavorare, esatto, basta. Cioè, ma allora adesso rifocalizzo sul nostro tema. Se vogliamo uscire completamente dal tema. No, basta, cioè, questa è una roba a caso. Ci sia interventi dal pubblico, ritento. Dai, Rocco. Dai, vieni, Rocco. Rocco? Allora, Rocco è un uomo meraviglioso. Dai, facciamo anche pubblicità in terra. Pubblicità in terra, comprate i prodotti di Rocco. Tranne Giuditta, per favore, non comprare niente. E no, le già vendute. No. No, vabbè, comunque meravigliosi prodotti. Ok, vai. E, no, ricollegando un po' di cose che sono state dette stasera, l'intelligenza artificiale potrebbe svolgere un ruolo non di paternità, maternità, ma di insegnamento, no? Quel ruolo della rete, all'interno della rete ci potrebbe essere anche l'intelligenza artificiale. Alcuni scrittori si sono interrogati di come potesse essere utile un insegnante robot che segue bene un figlio e lo guidi nelle sue curiosità, perché spesso il genitore ha il suo ramo di conoscenze e magari il figlio invece ha una sua indole, ha una sua... E niente, quindi c'è forse una possibilità anche di utilizzare bene questa scoperta scientifica, anche se poi l'umano spesso usa male le sue scoperte. Sì, cioè secondo me il punto è che, cioè, piuttosto che affidarlo all'intelligenza artificiale, cioè piuttosto fare un'educazione, diciamo, piuttosto, come dire, di empatia e ascolto ai genitori, cioè non so come dire, invece di inculcargli o di costringerli a fare delle cose che non sono nelle loro corde, insegnerei l'ascolto e, diciamo, l'indirizzamento all'essere umano. Non so, non credo veramente, adesso abbiamo deviato dal focus, però, come dire, credo che l'utilizzo di qualsiasi forma di intelligenza artificiale o internet o quello che è abbia un senso, forse nel semplificare, forse tra l'altro in un mondo occidentale, non so come dire, il risparmio di tempo su certe cose, però non credo che, cioè credo che se usato in questo senso invece vada ad annullare completamente la possibilità di avere uno spirito critico, cioè non so come dire, una sviluppo della mente, cioè credo che queste cose, esatto, esistano, sì, per facilitare la nostra esistenza. Sì, esatto. Allo stesso tempo penso che faticare comunque un po' serva, cioè quindi se non sviluppi, sì, sì, un, sì, attimo, sì, di... Però volevo farvi una domanda, E ritorniamo. E ritornando sul tema, dai. No. Poi dopo Maddalena, no, allora, poi torno sul tema, ma usando la sua... Vai. No, che comunque, ecco, questa cosa è molto interessante perché comunque ci sono, penso, cioè una delle varie criticità del restringere il nucleo familiare è proprio quello di talvolta non sei così capace di assecondare tuo figlio in quelle che sono poi le sue passioni, le sue aspirazioni, magari anche il suo modo di comprendere, di studiare, non lo so, penso a... Boh, cioè se a me capitasse un figlio particolarmente appassionato di matematica e scienza, non saprei tanto come supportarlo inizialmente, grazie a Dio, non sono da sola in un'isola. Quindi in realtà, cioè nel senso comunque ci sono appunto strumenti che... anzi, possono essere molto di stimolo proprio per affiancare delle persone che comunque mantengono il ruolo. Io quello che penso è che probabilmente per dove siamo arrivati adesso sarebbe un po' destabilizzante per l'identità non avere una persona fisica che ha un ruolo di cura per te nel mentre che ti sta insegnando qualcosa. Quindi non so come dire, magari arriva un insegnamento ma poi comunque qualcuno che assuma quel ruolo di... Sì, sì. Cura nei tuoi confronti di piccolo essere umano ci deve essere, ripeto, non deve essere per forza solo mamma e papà, ma quello ci deve essere, ecco, questo sì. Sì, sì, no, non lo so, cioè, a me non sto parlando per massi. Però... Allora, io volevo chiudere su due temi invece. Due? Ho una domanda che è per entrambe: in che modo il desiderio di maternità può trasformare una relazione d'amore? Ok. Uno. Due, penso che sia molto, almeno la cosa che a me ha interessato, è il discorso del senso di colpa, che chiaramente esce fuori, tra l'altro penso un po' in tutti e due i personaggi, che legherei anche un po' a un discorso del fallimento e quindi un po' a questa idea che la nostra società credo non sia molto... non ci abbia molto preparate e preparati ad affrontare un po' questa questione. E appunto rispetto anche a quello che vi dicevo prima sulle pressioni che possono esistere a livello sociale o all'interno di ciascuno di noi o nella nostra relazione, eccetera. Così, una riflessione su, in generale, anche vostra personale, cioè su come vivete questa cosa del senso di colpa, del fallimento, della paura... e in che modo ha un effetto sulla vostra vita, le vostre relazioni e in caso di Maddi anche forse sulla tua maternità. Allora, vabbè, io un po' riprendendo questa cosa che è venuta fuori anche dell'intelligenza artificiale, io credo che faccia, cioè, vergogniamoci un po', no, ogni tanto, non so come dire, cioè, nel senso che se noi vogliamo, cioè, affibbiare, no, la, ok, io non capisco mio figlio perché boh, ha altre passioni, non lo so, però e quindi ChatGPT può essere uno strumento che io non comprendo, a parte che comunque dovrebbe essere il ruolo dei maestri, cioè nel senso cioè di tutte quelle figure educative, no, che sono i genitori e che sono poi le altre figure, perché poi a un certo punto il bambino cioè ha un'identità. Cioè, a un certo punto, non so, io questa roba che mi ha colpito, non so perché mi ha colpito, ma questa amica mamma che bambino che arriva ai 2 anni e che quindi la roba bellissima è, cazzo, cioè siamo in 3, il bambino ha un'identità, ha una sua personalità, viene fuori, perché poi, e quindi lì dici, ora ciò che ho, cioè una terza persona in mezzo, prima era un essere che non era neanche capace di comunicare, no? Cioè comunicava con i mezzi che aveva, e quindi questo un pochino mi sento di dire che poi, cioè, se ci dimentichiamo che abbiamo a che fare con un essere umano, è difficile. E quindi qui mi collego anche un po' a come il desiderio dell'altro, in particolare della maternità, può influire su una relazione, perché noi siamo sempre in relazione con l'altro e quindi è inevitabile che i nostri desideri influiscano sull'altro, e se non c'è un incontro è difficile. Quello della maternità, della genitorialità, io non... personalmente non lo so, sicuramente può influire su tante cose, perché comunque ci risveglia in noi dei sentimenti di paura, di ansia, di terrore, di cambiamento, sono tutte cose che ci spaventano, che ci fanno dire, ma io sono in grado o no, sono capace o no, perché... E inevitabilmente sentiamo questo senso di colpa e questo peso, questo sguardo degli altri, e, ma poi non lo so, poi non è davvero così, poi ovviamente abbiamo tutte le nostre paure, le nostre paranoie, quindi non lo sapremo mai, e, però ecco, cioè, come tutte le cose, come tutti gli scontri, penso possa essere un motivo di scontro, no? Un motivo di conversazione, almeno. Maddalena, ah, vuoi dire la tua? Allora, rispetto a... cioè, adesso... No, non aggiungerei troppo rispetto a questo argomento, nel senso che non so, il confronto con il senso di colpa, il senso di fallimento, eccetera, io, cioè, personalmente lo posso vivere dal punto di vista di della posizione di genitore, in cui ti senti comunque appunto molto responsabile, se non l'unico responsabile di alcune cose che accadono, che accadranno, eccetera, e quindi è un po' un conflitto, poi magari io ho questa personalità qui, però è un confronto continuo con la questione del senso di colpa, perché continuamente, sentendoti un po' il principale responsabile delle cose che non funzionano, ti chiedi continuamente: potevo fare meglio, potevo fare meglio, potevo fare meglio. Poi devo dire che la mia conclusione è no, non potevo fare meglio e penso anche che spesso veniamo un po' portati a doverci chiedere se ci sentiamo capaci di fare delle cose che in realtà non sappiamo neanche cosa sono, perché poi spesso succede che tante persone si sentono pronti, si sentono preparate, hanno fatto i corsi, hanno fatto, si trovano poi nelle situazioni in cui vivono determinate esperienze, adesso magari parliamo della maternità, e poi si rendono conto che è tutt'altro da quello a cui si erano preparati completamente. E lì viene il senso di colpa, però poi è una cosa molto indotta, molto di pretese che si ha su se stessi o che gli altri hanno su di te, ma che poi come fai ad essere pronto per qualcosa che non sai cosa ti succederà? Ti cambia il corpo, ti cambia il sonno, ti cambiano gli equilibri, ti cambiano le prospettive. Come fai a saperlo? Sì, cioè appunto lo fai se vuoi farlo e non lo fai se non vuoi farlo, cioè per me poi alla fine un po' il discorso arriva a questo punto. Poi spesso ci si pone molto la domanda di voglio io essere madre, non voglio essere madre, e poi a volte forse ci dimentichiamo appunto che siamo genitori insieme a qualcuno, perché a meno che una non decida e non riesca anche a essere madre da sola, poi da sola del tutto spero che non sarai, nel senso che spero che avrai la tua rete in ogni caso, ma poi come dire, no? Funziona che sulla carta d'identità c'è papà e mamma segnati, o genitore 1 e genitore 2. No, non è vero, perché purtroppo le madri, due madri, ne riconoscono solo una nel nostro paese, ma va bene. E, mi sono persa nel mio stesso discorso, aiuto. No, che stavi dicendo che diciamo mi sono persa il mio stesso discorso. No, capita se non hai finito la piadina. Ce l'ho neanche la piadina. Mi sono persa il mio stesso discorso. Non so dove volessi arrivare, ma il discorso era che ovviamente tu hai questo senso di responsabilità. Ah no, volevo dire che talvolta appunto ci si pone tanto la domanda di voglio essere madre o non voglio essere madre, ma poi appunto è anche della rete che ti si crea attorno inevitabilmente. E adesso non vorrei sembrare inesorabile, però, e questo per me riguarda anche un po' la questione dell'identità che hai detto prima. Il fatto che hai un nuovo essere vivente lì, io personalmente l'ho sentito già quando è iniziato a muoversi in pancia, che ho detto ok, c'è un'altra persona qua dentro, non è più un magma. Infatti quello che spaventa Arianna, dice io non essere vivente nella pancia, c'è qualcosa comunque. Sì, poi lo so, io magari ero nella posizione di attesa di conoscere questa personcina e quindi posso aver accolto con più o meno, cioè, con una certa gioia. Capisco benissimo che lo si possa accogliere con un certo spavento, però c'è comunque questa cosa per cui a volte si va un po' fra due poli, no? Tratto il bambino come questo essere, non so, puttino vestito di bianco alato che rimane incantato e che non ha una personalità, oppure iperresponsabilizzo un bambino che non ha una personalità formata. Cioè io sento che comunque mia figlia ha 10 anni, ok, è grande, lo sento che ci sono tante parti della sua personalità che sono fortissime e tante parti della sua personalità mi obbligano a confrontarmi col fatto che lei ha già la sua rete, che è al di là della mia rete, e io devo saperla accogliere in qualche modo, ci devo saper convivere, però non è già una persona, non ha già un carattere formato, e io non posso trattarla come se le sue scelte in questo momento della sua vita fossero completamente, totalmente sue, solo una sua responsabilità, che è una cosa che io a volte sento fare e che secondo me viene portata un po' da questa tendenza a iperresponsabilizzare il singolo individuo, che a volte iperresponsabilizziamo i bambini dimenticandoci che sono dentro una rete, stanno assorbendo cose da una marea di persone e non sono così formati. Io non posso accusare un bambino completamente per una cosa che sta facendo, secondo me. Poi è un equilibrio molto sottile, perché appunto quanto è sottile, secondo me non c'è una regola, quando un bambino mi sta dicendo una cosa che riguarda la sua identità in modo molto forte. Mi fa sorridere perché per esempio mia figlia è completamente pazza di cavalli, da quando ha iniziato a saper parlare lei vuole solo cavalli nella sua esistenza. Io questo per ora lo sto considerando un tratto caratteristico della sua identità molto forte, perché non è mai venuto meno e perché lei lo proprio difende strenuamente. Poi a maggior ragione mi stupisce, perché io i cavalli proprio boh, chi lo sa, va bene, ok, Quindi è una cosa che le è arrivata da un'altra parte della sua rete, comunque qualcuno le ha fatto brillare gli occhi per i cavalli. Però questo è per dire che penso che appunto è un terreno delicato su cui a volte adesso si potrebbe parlare all'infinito, no? Quando riguarda l'identità di genere del bambino, quando riguarda, perché a volte il bambino ti porta un'identità fortissima e devi comunque essere capace di fare i conti col fatto che sì, non posso iperresponsabilizzarlo, ma non posso neanche nascondere che è una nuova persona, è una nuova cosa, è un nuovo pezzo di futuro. E quindi siamo poi questo qui. Per i cavalli ti dico solo, boh, per me è successo così, cioè, a 10 anni hai detto? No, no, lei da quando aveva un anno. Ok. Lei vede solo okay. Cavalli. Bello, bello. Gli altri animali si chiamavano come gli animali. Loro cavalli. Era la mucca, la capra era la capra, e invece il cavallo era il mio amico cavallo. Bello, bellissimo. E ho iniziato a 12 anni. Il cavallo. Andare a cavallo, quindi secondo me... Fanno bene, secondo me, i cavalli. Non economicamente, io sostengo, però... Sostengo. Anche nella vostra mina ci sono cavalli. Perfetto. Allora, grazie. Giada, chiuderei chiedendoti se vuoi darci degli spoiler su future evoluzioni. Non so se di questo racconto o di altri tuoi racconti. Ma no, non lo so. Cioè, non ne ho assolutamente idea. Se è una cosa a cui hai pensato, diciamo, l'evoluzione di questi personaggi, di un allora, racconto. Sicuramente, allora, io dopo aver comunque concluso questo racconto ho fatto il laboratorio di scrittura, poi ci sono state, diciamo, altre edizioni, tra virgolette, dove ho scritto un secondo racconto. Il mio sogno sarebbe fare una raccolta di racconti. E quindi questo racconto, insomma, ne farebbe parte sicuramente a livello di scrittura, anche un po' di editing, ha del lavoro da fare ovviamente, però ecco, diciamo che non ho idea di cosa succederà. Io spero, insomma, che chissà possa... se a Fabio avranno un'evoluzione, se avranno... No, allora, diciamo che la forma del racconto è quella che al momento mi piace di più. Non so se un giorno diventerà un romanzo, non credo, al massimo può allungarsi di qualche pagina, però rimarrà sempre un po' la forma del racconto. E... però ecco, quello che forse potrà estendersi è che farà parte insieme ad altre storie di, insomma, di una raccolta di storie, ecco. Poi non so se avverrà, ma questo è il sogno. Attendiamo la tua pubblicazione di racconti a cabaret. A cabaret. A cabaret. Va bene, grazie. Grazie a tutte e tutti. Grazie. Ciao pubblico. Grazie alle mie amiche. Grazie Laura, grazie Maddi. Ciao.